Domenica è sempre una splendida giornata, quando scendono i granata, un solo grido al cielo, tutti quanti ancora in coro, aci questo grande amore crescerà, sognando la Serie A. Per gridare siamo qui per voi, siamo qui noi, siamo qui per voi, forza Girale, siamo qui per te, forza Girale, siamo qui per te. Sapete metterci l'anima, ragazzi, c'è una città che sarà sempre con voi in ogni sfida impossibile. Il vostro grande cuore ci farà sognare ancora. Siamo qui per voi, siamo qui per voi, siamo qui per voi. Siamo qui per voi, siamo qui per voi, siamo qui per, siamo qui per voi, siamo qui per voi, siamo qui per voi. Forza Girale!